sono residente nel quartiere Bolognina e vi parlo quindi da residente. L'iniziativa consiste ovviamente in un'iniziativa non violenta, perché questo contraddistingue le nostre volontà come singoli abitanti della città, ed è una raccolta di firme rispetto alla quale abbiamo predisposto un brevissimo documento nel quale lamentiamo appunto questa iniquità del trattamento che viene riservato agli abitanti del quartiere. Il problema della sicurezza non può essere gestito militarizzando un quartiere e trattando i suoi residenti come delinquenti. Va invece gestito, questo è un invito esplicito che si rivolge al comune, incentivando quelle attività che consentono la socialità di quartiere e che per il solo esistere arginano il fenomeno delinquenziale, perché l'unione della comunità è quella che tiene al sicuro i suoi membri dalle eventuali condotte antigiuridiche. Se tu sei solo in una strada buia con tutto chiuso, è più facile che ti rubino il portafoglio, che ti aggrediscano, di che se in quella stessa strada ci sono esercizi commerciali dove va la madre col bambino, piuttosto che la signora che è tornata dalla spesa, piuttosto che la persona in vacanza che magari vuole visitare la città nel suo intero e non limitarsi alle strade indicate da questa o quella guida turistica. Tu dicevi appunto che voi residenti venite trattati come delinquenti, puoi farci qualche esempio? Allora guarda, basta venire, anzi io invito formalmente il sindaco Matteo Lepore a venire con me a farsi un giro per la Bolognina, a farsi un giro per la via di Corticella, dove nonostante il limite dei 30 le pattuglie sfrecciano i 200 con sirene spiegate e lampeggianti che vanno a qualsiasi ora del giorno e della notte. Invito sempre il sindaco a venire con me nei bar di quartiere dove la polizia arriva in antisommossa. Faccio due domande. La prima: quanto costa mandare una squadra antisommossa con anche unità cinofila al seguito per verificare se vi sia quale pericolo? Perché è questa un po' la domanda. Qual è il pericolo che viene ravvisato per un dispiegamento così importante di forze? Questa è la domanda a cui il sindaco deve rispondere. Perché in via di Corticella, se prendi il caffè in un bar, ti entra la polizia in divisa e chiedi documenti a tutti gli avventori? Mentre vi parlo io sto camminando per la mia Indipendenza. Fido chiunque a dirmi di essere stato controllato nei documenti, ad esempio al bar pasticceria che c'è all'angolo con via Righi, oppure, non lo so, a uno qualsiasi dei bar che si affacciano sulla Piazza Maggiore. Due pesi, due misure non può bastare. Sottoporci a un trattamento così vessatorio, sol perché abitanti in un quartiere che forse è attenzionato perché bisogna scacciare i residenti per installare delle attività che so magari turistiche o trasformarli in un autogrill come è successo con il centro, è un'idea che può funzionare ma che non può passare attraverso la libertà dei cittadini di uscire di casa e di andarsi a bere il caffè sotto casa o di andarsi a prendere l'aperitivo sotto casa o anche di andare ascoltare un concerto sotto casa. Siamo un quartiere e non un ghetto, e questo è il richiamo che con il comunicato e che da venerdì troverete esposto negli esercizi che aderiscono a questa iniziativa noi cerchiamo di sollecitare. Insomma, questa riflessione è una riflessione di libertà e di rispetto per le persone che onestamente vivono e lavorano in una città già problematica e resa problematica dall'impossibilità di accedere a prezzi decenti all'abitazione e di avere contratti di lavoro con stipendi che consentano una vita normale, quotidiana. Alcuni tipi di operazioni, di controlli non servono, non rispondono a logiche di magari contrasto allo spaccio, cose di questo tipo. Sono, come dire, li vivete un po' come vessazioni. Li viviamo come intimidazioni. Io personalmente, che anche l'altra sera sono tornata dopo 12 ore di lavoro, mi sono fermata al bar sotto casa mia in via di Corticella, sono venuti degli agenti in divisa. Io premetto che rispetto sicuramente l'operato delle forze dell'ordine, e non è questo il fine di questi rilievi, non è screditare l'azione delle forze dell'ordine, è far ragionare chi queste azioni organizza, perché le direzioni dove c'è un pericolo, perché non c'è un pericolo alle ore 19 in un bar di quartiere con dentro quattro persone di 50 anni, un pericolo tale per cui si devono chiedere i documenti agli avventori. Non c'è un motivo per cui in un bar tu ti debba aspettare costantemente l'ingresso delle forze di polizia in divisa, che con fare comunque autoritario, sono delle autorità, richiedono informazioni all'esercente. Non è quello che succede in centro. E in centro chiunque può dire il tasso di criminalità, e intendo microcriminalità, il furto del portafogli, l'accoltellamento, la persona che minaccia con, non lo so, c'era il tempo di quelli che minacciavano con le siringhe. Il centro storico non è diverso dalla periferia in punto a diffusione della microcriminalità, ma è trattato diversamente. Quindi la domanda è: perché a questa domanda io onestamente non ho trovato una risposta diversa dal vi mettiamo paura così restate nelle vostre case, ma noi non siamo schiavi, siamo persone libere e la città non è un ghetto, ma è un posto noto per l'accoglienza e per l'amore che i cittadini le rivolgono e che la città restituisce. Noi vogliamo questo, vogliamo più amore. Tutti firmate o anche manifestate la vostra solidarietà, magari anche scrivendo alla radio agli indirizzi che trovate sul sito, e ricordatevi che la libertà tolta a uno è la libertà tolta a tutti.